le 13 in punto. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. La ora è come Monaco. Nella città pakistana un gruppo di terroristi attacca il pullman della squadra di cricket dello Sri Lanka. Almeno 7 i morti. Forse è opera dello stesso gruppo degli attentati di Mumbai. Estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori. 20 arresti nel napoletano in un'operazione anticamorra. Mancato rimbalzo delle borse europee. Piazza Affari perde oggi oltre l'1% ed è la peggiore in Europa. Frattini e Radio 24 esclude l'opzione militare contro l'Iran. Con il prezzo del petrolio in calo, dice il ministro, l'effetto delle sanzioni si moltiplica. Testamento biologico slitta di 2 settimane l'arrivo in aula al Senato del disegno di legge. Rapporto annuale di Legambiente, mobilità punto dolente dell'Italia, la maggior parte dei trasporti di persone e merci ancora su gomma. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. Ed Alessandra Tedesco. In primo piano dunque quanto accaduto a Lahore, la seconda città più importante del Pakistan. In parte ricorda quanto successe a Monaco durante le Olimpiadi del 72. Allora un gruppo di terroristi palestinesi di Settembre Nero fece irruzione negli alloggi israeliani uccidendo 2 atleti, prendendo in ostaggio gli altri. Un blitz della polizia tedesca portò poi alla morte degli altri 9 atleti. Oggi invece ad essere presa di mira è stata la squadra di cricket dello Sri Lanka. C'è da dire che il cricket è considerato un po' come il calcio da noi, insomma, è lo sport più importante. E allora sentiamo quanto è accaduto da Adriana Fracchia. Sì, buongiorno. Un comando armato di una decina di uomini ha attaccato stamani con fucili, granate e lanciarazzi la squadra di cricket dello Sri Lanka, come avete detto voi da studio, questo prima di un incontro in Pakistan a Lahore. Almeno 5, forse 6 poliziotti della scorta, però il bilancio non è ancora definitivo, e 2 civili sarebbero morti, mentre 6 giocatori ed un vice allenatore britannico sono rimasti feriti. 2 di loro sono stati trattenuti in ospedale, gli altri sono stati già dimessi. Si è trattato di un'azione coordinati, i terroristi hanno teso un'imboscata all'automezzo che trasportava la squadra cingalese a circa 100 metri dallo stadio Gaddafi di Lahore nel Pakistan orientale. Subito si è scatenato un conflitto a fuoco con la scorta del convoglio. Sempre a Lahore oggi i servizi di difesa civile hanno anche disinnescato 2 autobombe e trovato un deposito di armi usato dal comando. Dura la condanna dell'attacco terroristico sia da parte del presidente cingalese Rajapakse, che ha invitato tutti i giocatori a rientrare immediatamente in patria, sia da parte del presidente pakistano Ali Zardari. Questo attentato ricorda molto quello delle stragi di novembre contro Mumbai, la capitale economica dell'India, di cui sono stati accusati terroristi pakistani, e ha riportato alle stelle le tensioni tra i 2 paesi confinanti. Per le autorità cingalesi invece non sono sospettate di un coinvolgimento nell'attacco le Tigri Tamil, contro cui è in corso l'offensiva finale nel nord-est appunto dello Sri Lanka. Ed è tutto per il momento, vi restituisco la linea. Grazie Adriana Fracchia, ma che cosa c'è dietro questo attentato? Noi tra poco sentiremo una intervista a un esperto di terrorismo e di trasformazioni politiche nel sud dell'Asia. Prima però facciamo un salto in borsa. Sì, andiamo in borsa perché ieri è stato un lunedì nero, come molti giornali oggi riportavano sulle prime pagine. Deborah Rosciane, come sta andando oggi? Allora, non è un martedì nero, ma le cose non sono particolarmente brillanti quest'oggi in Europa. Gli indici del vecchio continente oggi in avvio hanno tentato di rimbalzare, ma senza alcun entusiasmo, senza slancio, e infatti poco dopo c'è stata di nuovo una marcia indietro che ha portato gli indici a perdere di nuovo terreno, tutti quanti di nuovo in territorio negativo. In questo momento a guidare le perdite europee è Londra, che sta cedendo l'1,62%, ma come dicevate prima correttamente, per una bella fetta della mattinata era stata proprio Piazza Affari a guidare i ribassi. Milano sull'S&P MIB, dopo il crollo del 6% di ieri, è arrivata a perdere anche stamattina 2,5 punti, adesso il calo è dell'1,23%. Timidamente positiva Parigi, più 0,35, sulla parità Francoforte, che anzi in questo momento è in calo dello 0,07%. Cosa trascina a ribasso la borsa europea oggi? I titoli del settore minerario, per la verità a Londra, e tutti quelli del comparto bancario: Prudential meno 6, Barclays meno 6, Lloyds meno 6, stesso andamento più o meno anche nelle altre piazze, e anche a Piazza Affari, che vede fortemente penalizzati il Banco Popolare meno 4,50, Mediobanca meno 3, Monte dei Paschi meno 3, Unicredit partita, ha toccato nuovi minimi, adesso perde il 2,78%. Questa è la situazione di oggi e direi che per ora è tutto. Grazie Deborah Rosciani, vi ricordiamo l'aggiornamento con i mercati poi alle 13.30. C'è stata oggi un'importante operazione anticamorra nel napoletano, almeno 20 gli arresti. Allora, per tutti i dettagli ci colleghiamo proprio con Napoli, con il nostro Enzo Danna. Che è successo, Enzo? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono almeno una ventina le persone finite in manette nel corso di questo blitz effettuato questa mattina dai carabinieri nei comuni a nord di Napoli. Nel mirino degli investigatori sono finiti esponenti dei clan Verde, Spenuso e Marrazzo, attivi nei comuni di Caivano, Grumo, Nevano, Sant'Antimo e Casandrino, responsabili di una serie di estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti della zona. Ma l'operazione di oggi, coordinata dalla DIA di Napoli, ha messo in luce anche un altro importante aspetto, e cioè l'intreccio tra la camorra campana e l'andrangheta calabrese. Infatti è stato smantellato un traffico di droga, soprattutto cocaina, che arrivava in Italia da Spagna, Olanda e Belgio grazie alla complicità di trafficanti calabresi e napoletani residenti a Bruxelles. Le accuse per gli arrestati sono di associazione mafiosa, traffico di droga ed estorsioni. Vi restituisco la linea. Grazie Enzo Danna, e su quanto successo sentiamo il commento di Daniele Biacchessi. È la nuova frontiera degli affari legali dell'economia mafiosa. Costituire cartelli, vere e proprie joint venture, per spartirsi il denaro proveniente dal traffico di droga e armi, estorsioni, controllo sistematico degli appalti pubblici. Un sodalizio che in Italia produce ogni anno milioni di euro, guadagni procurati in modo illecito, attraverso società offshore gestite da prestanome oppure in attività commerciali, solo apparentemente pulite. L'inchiesta odierna dei carabinieri, nome in codice Rewind, conferma in particolare l'alleanza tra la famiglia mafiosa calabrese degli Strangio e i clan Verde, Marrazzo e Spenuso, i boss più importanti della geografia delle cosche. Gli investigatori hanno delineato le nuove rotte del traffico internazionale di droga, eroina e cocaina in particolare, Spagna, Belgio, Olanda e Italia. 'Ndrangheta e camorra contro Cosa Nostra. È il segno che alcuni patti segreti si rompono e altri vengono siglati, sempre però sotto l'insegna del crimine organizzato in Italia. E ora una notizia che riguarda, insomma, gli amanti degli animali e dei cani in particolare. Io non ne ho, però... Ma anche chiunque passeggi, insomma, visto che sono stati numerosi i casi, insomma, di aggressione di cani cosiddetti pericolosi, ritenuti pericolosi, a persone che normalmente magari erano in un parco. Si può essere coinvolti anche se non si hanno animali, naturalmente. È stata presentata questa mattina ed entrerà in vigore tra qualche giorno la nuova ordinanza sulla sicurezza dei cani. Sostituisce quella dell'ex ministro Livia Turco, che era scaduta a gennaio. La novità più importante è che viene abolita la lista delle razze pericolose. Secondo il sottosegretario alla salute Francesca Martini, che ha scritto il provvedimento, la distinzione delle razze infatti non ha fondamento scientifico e ogni cane potrebbe essere invece potenzialmente pericoloso. Quindi nel dettaglio di questa ordinanza, per esempio, per tutti i cani ci sarà l'obbligo di tenere a portata di mano la museruola e di avere un guinzaglio lungo al massimo 1,5 metri, come ha spiegato lo stesso segretario Martini, che è intervenuta questa mattina 24 mattino al microfono di Alessandro Milan. Perché è importante? Perché quando un guinzaglio può partire e allungarsi fino a 3 metri e 4 metri, ma dov'è la sicurezza? Dov'è la sicurezza per le altre persone? Dov'è la sicurezza per lo stesso cane che magari parte, vede un altro cane, attraversa la strada, va sotto una macchina? C'è anche la questione della museruola. Sarà obbligatorio portarla con sé per tutti? Con sé per tutti. Nessuno chiederà mai al proprietario, prendiamo il barboncino, anch'io ho due cani tra cui anche un barboncino, nessuno chiederà al proprietario di un barboncino di mettere la museruola perché diventa pericoloso. Però se ho un cane di grossa stazza, non soltanto potrebbe creare situazioni di tensione tra le altre persone, ma anche l'autorità pubblica, per motivi di sicurezza, potrebbe chiedere di mettermi. Fin qua dunque il sottosegretario alla salute Francesca Martini, questa mattina ospite a Radio 24. Cambiamo decisamente tono e argomento, parliamo della moda, siamo agli sgoccioli. Siamo agli sgoccioli infatti, perché fra oggi e domani si concludono le sfilate per la collezione autunno-inverno 2009-2010, mi riferisco alla settimana della moda milanese. Io non ho visto granché, però so che siamo forse un po' sottotono. Sarà la crisi, sentiamo invece cosa ci dice la nostra Paola Bottelli. È così. Che ha seguito le sfilate, Paola, allora, c'è stata... Buongiorno. aria di crisi in questa settimana? Ma sottotono sicuramente, perché comunque ci sono stati meno compratori, soprattutto quelli che arrivano dai mercati più lontani, penso agli asiatici innanzitutto, quindi c'erano parecchi posti vuoti nei parterre, ma assolutamente non sottotono per lo stile visto sulle passerelle, che invece è stato enfatizzato a dismisura, fin troppo secondo mio parere, nel senso che si è vista una moda soprattutto con queste spalle gigantesche, qualcuno le dice, cioè sono tornate agli anni 80? Qualcun altro agli anni 80, qualcun altro ancora alle farfalle, sta di fatto che nei negozi si vedranno dei capi secondo me completamente diversi da quelli che si sono visti in passerella, perché praticamente nessuna donna si veste nel modo in cui si è visto in questi giorni. Che cosa ti è piaciuto, Paola? Quale stilista, che cosa hai apprezzato invece di più? A me è piaciuta molto la sfilata di Versace ieri sera, perché quella che è la più importante tra, diciamo, quella che ha chiuso un po' il calendario, perché oggi c'è ancora qualche cosa ma i marchi sono decisamente più piccoli. L'ho trovata molto Versace ed è molto giusto avere un'identità ben riconoscibile e coerente nel tempo, allo stesso tempo molto indossabile. Mi è piaciuta anche molto la sfilata Prada, che è più bizzarra, eccentrica, come la definirebbe il consumatore della strada, diciamo così, ma che comunque aveva delle caratteristiche di originalità molto rilevanti. Paola, potremmo concludere dicendo che in questa fase le sfilate con questa crisi aumentano un po' l'effetto di estraneazione della moda rispetto all'attività reale del mondo e dell'economia. C'è qualche stilista che su questa scia cerca di anticipare un po' i tempi per evitare crisi future anche in questo settore? Tutti stanno un po' tagliando i costi, in effetti, quindi le sfilate hanno avuto scenografie meno eclatanti, in generale sono state utilizzate meno top model e più modelle, diciamo così, meno costose, perché anche lì ci sono le varie categorie ovviamente, si stanno dando a tutti abbastanza una regolata in un settore che forse ha anche ecceduto e sprecato tanto negli anni scorsi. Grazie Paola Bottelli. Sono le 13:15, GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Attacco alla squadra di cricket dello Sri Lanka, un comando di 12 terroristi pakistani armati assalta il pullman della squadra di cricket cingalese a Lahore, seconda città del Pakistan, almeno 7 le vittime, gli esperti, è un messaggio diretto al governo di Islamabad che non controlla il territorio. Gli Stati Uniti lavoreranno con qualsiasi nuovo governo israeliano, lo ha dichiarato il segretario di Stato di Washington, Hillary Clinton, in visita in Israele. E di fronte alla minaccia nucleare dell'Iran, la risposta sono le sanzioni economiche, chiarisce il nostro ministro degli esteri Frattini, che a marzo sarà a Teheran. Sentiamolo questa mattina a Radio 24. Una guerra con l'Iran sarebbe una catastrofe per il mondo intero. Con un abbassamento così forte dei prezzi del petrolio, l'idea di sanzioni che esistono e che l'ONU ha già stabilito, sanzioni effettive, ha un effetto ancora più moltiplicato, forte e deterrente. Certo. Borse europee, nessun rimbalzo, seconda giornata di cali dopo il crollo di ieri, Milano maglia nera in ribasso dell'1% e in Giappone la Toyota annuncia chiesto un prestito da 1,7 miliardi di euro alla banca pubblica a supporto delle attività negli Stati Uniti. Operazione anti-camorra nel napoletano, oltre 20 arresti da parte dei carabinieri, hanno scoperto una rete di gruppi criminali dedicata al traffico di droga dalla Spagna all'Italia via Olanda e Belgio. La camorra collaborava anche con l'Andrangheta. Ha scoperto anche diverse estorsioni e danni di commercianti e imprenditori della zona. Slitta di 15 giorni l'arrivo nell'aula del Senato del disegno di legge sul testamento biologico. La conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama ha infatti fissato all'unanimità il nuovo calendario, che prevede l'arrivo in aula il 19 marzo con un paio di giorni per la discussione generale. Scioperi sindacati di base all'Italia precettati per la stensione inizialmente prevista per domani. Decisione giusta, commenta il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Altero Matteoli. Non è possibile in un momento economico come questo organizzare uno sciopero, soprattutto nel settore dei trasporti, in un momento in cui stiamo lavorando anche con i sindacati per cercare di trovare soluzioni, non soltanto nel trasporto aereo ma anche nel trasporto pubblico locale. Paralizzare o cancellare dei voli in un momento come questo, io lo trovo completamente sbagliato. Male rifiuti e mobilità, bene l'efficienza energetica. Lega Ambiente fotografa lo stato di salute dell'Italia, aumenta la produzione dei rifiuti senza raccolta differenziata, il 54% finisce in discarica con il record del 94% della Sicilia. Nessun passo avanti sulla mobilità e invece migliora l'emissione di gas serra, complice la crisi economica. Tra poco l'intervista. E ora ne parlavamo nella prima parte del GR Extra Large, questo attacco avvenuto stamattina da parte di un gruppo di terroristi nei confronti del pullman che ospitava la squadra di cricket dello Sri Lanka. L'attacco è avvenuto a Lahore, che è la seconda città del Pakistan con più di 6 milioni di abitanti. Che cosa c'è dietro questo attacco? Cristina Balotelli ha intervistato Isaac Kfir, che è un docente di scienze politiche in Israele ed è esperto delle trasformazioni politiche nel sud dell'Asia. Penso che sia l'ennesimo esempio di come il terrorismo pakistano cerchi di dimostrare al mondo come il governo di Islamabad non sia in grado di controllare la situazione nel paese. Il target doveva essere internazionale e il miglior obiettivo del momento era proprio la squadra di cricket srilankese che stava visitando il Pakistan. In effetti abbiamo letto che la squadra di cricket dello Sri Lanka era stata invitata dopo che quella indiana aveva cancellato una tournée proprio in seguito agli attentati di Mumbai. Negli ultimi anni abbiamo assistito in Pakistan a importanti trasformazioni. I terroristi si sono trasferiti dalle aree tribali alle maggiori città pakistane. Lahore è una delle più grandi città del Pakistan ed è situata nel Punjab, la regione da dove proviene il gruppo terroristico Lashkar-e-Taiba. Il gruppo ha interesse a mostrare al governo pakistano, guidato da Ali Zardari, che non ha più il controllo del Pakistan perché sono i radicali islamici ad avere il potere e cercheranno di attaccare chiunque cerchi di mettere loro i bastoni tra le ruote. Ma perché proprio una squadra sportiva? Pensa che i terroristi possano aver preso ispirazione da Settembre Nero, il gruppo palestinese che attaccò la squadra israeliana alle Olimpiadi di Monaco? Sì, credo che l'idea sia quella di catturare il più possibile l'attenzione pubblica e niente attira di più di un attacco agli stranieri. Molte squadre straniere di cricket si recano in Pakistan per ragioni sportive, quella inglese, quella australiana per esempio. Questo attentato ha l'effetto di spaventare le squadre straniere che intendono venire in Pakistan e al tempo stesso lancia un messaggio contro il governo di Islamabad. Voi non avete il controllo del paese. Inoltre vogliono mostrare al mondo che non possono essere sconfitti. Le autorità locali pakistane e la polizia hanno detto che si tratta dello stesso gruppo che ha compiuto gli attentati di Mumbai. Lei che cosa ne pensa? È possibile. Il gruppo che ha colpito in India, Lashkar-e-Taiba, è stato fondato in Punjab negli anni Ottanta. Quindi è probabile che sia lo stesso gruppo. Tutto indica che quest'ultimo attacco è stato condotto da una cellula molto organizzata e ben armata. 12 individui, armi automatiche, propulsori di razzi e granate, gente molto ben addestrata e ben equipaggiata. Questa dunque è l'intervista di Cristina Balotelli a Isaac Kfir, esperto di trasformazioni politiche nel sud dell'Asia. Adesso apriamo invece un'altra pagina, abbiamo annunciata nei titoli lo stato di salute dell'Italia fotografato da Lega Ambiente. Ne parliamo con il presidente di Lega Ambiente, Vittorio Cogliati Dezza. Buongiorno. Buongiorno. Mi pare che i punti che avete sollevato nel vostro rapporto annuale sono tre: la politica dei rifiuti, la politica della mobilità e quella dell'energia. Forse da quest'ultima vengono buone notizie. Invece per quanto riguarda i rifiuti, ancora problemi per l'Italia, nonostante la risoluzione del caso Napoli. Sì, perché non c'è stata in questi anni una politica che puntasse alle due strategie vincenti. Una è quella della riduzione alla fonte dei rifiuti e l'altra quella della raccolta differenziata. Le politiche nazionali da questo punto di vista sono state penalizzanti perché si è riedito il CIP 6, che è il sostegno dato ai termovalorizzatori, e si sono promessi un po' troppi termovalorizzatori in giro per la penisola, solo in Campania 5 sono francamente sovradimensionati. Ciò nonostante delle situazioni positive ci sono più di 1000 comuni in Italia che hanno superato il 40% della raccolta differenziata. La Sardegna in soli 5 anni è passata dal 3% al 38% di raccolta differenziata, oppure in una città come Salerno ci sono 100.000 abitanti che oggi raccolgono l'80% grazie all'organizzazione del porta a porta. Senta, per quanto riguarda invece la politica della mobilità, sembra che questo sia sempre il punto dolente dell'Italia. Per quanto riguarda le merci, è ancora prevalente il trasporto su gomma. Per quanto riguarda invece le persone, si usano scarsamente i mezzi pubblici. Che cosa emerge dal vostro rapporto? Sì, noi siamo succubi della monocultura dell'auto privata, diciamo così, nel senso che si pensa sempre e comunque che l'unico modo per muoversi sia sostanzialmente quello. Questo però è anche il risultato di una mancanza di coraggio da parte sia di politiche di sostegno nazionali, ma anche di scelte delle amministrazioni locali. Se pensiamo che la tramvia di Firenze è stata sottoposta al referendum perché c'era qualcuno che era contrario, se pensiamo che il segnale di maggiore innovazione è stato dato in questi anni dall'Ecopass di Milano, che pure non è riuscito ancora a risolvere alcuni dei problemi. Cioè, manca una politica di infrastrutture, che significa soprattutto trasporto pubblico e su rotaia, collegando le metropolitane leggere o pesanti all'interno delle città al pendolarismo e alle ferrovie, che dovrebbero garantire un spostamento rapido e veloce dal territorio circostante le città fino ai luoghi di lavoro. Ma per fare questo serve un investimento e serve una politica di infrastrutture. Ecco, però c'è un altro capitolo che è molto importante ed è quello della cosiddetta efficienza energetica. Ci sono stati annunci di recente che riguardano l'investimento dell'Italia sul nucleare. Qualche passo avanti, voi dite, il campo energetico è stato fatto in Italia? Sì, diciamo subito che il nucleare ha ben poco a che spartire con questo terreno. In Italia abbiamo due fenomeni. Il primo è che, essendo rimasta bloccata per tanti anni, i passi avanti che sono stati fatti ultimamente nel solare termico piuttosto che nell'eolico o nel fotovoltaico percentualmente sono molto significativi. Il solare termico, per esempio, è cresciuto del 64% l'ultimo anno, ma se dovessimo raggiungere la quota di produzione di solare termico della Germania, a questo tasso di incremento ci vorrebbero 7 anni, questo per dire quanto oggi in Germania è più diffuso il solare termico. Stiamo parlando di una risorsa che in Italia, visto che siamo il bel paese del sole, diciamo, dovrebbe essere molto più accessibile che non in Germania. Nonostante questi tassi di incremento, l'ultimo anno le fonti rinnovabili sono aumentate della metà di quanto è aumentata la produzione di energia elettrica da carbone, il che significa che in termini di emissioni di CO2 l'aumento di produzione da carbone annulla i vantaggi della produzione da fonti rinnovabili. E in più c'è da dire che gli ultimi due inverni fortunatamente sono stati inverni miti e questo ha prodotto una salutare diminuzione delle emissioni di CO2. Certo, minore consumo energetico. Ma il fatto è che i riscaldamenti sono stati più bassi, infatti. Grazie allora a Vittorio Cogliati Dezza, presidente di Legambiente. Noi parliamo ora di immigrazione. Sì, perché tra gennaio e febbraio sono arrivati in Italia ben 500 clandestini in più rispetto ai primi due mesi dello scorso anno. Nella maggior parte dei casi i barconi che cercano di raggiungere Lampedusa o la Sicilia più in generale partono dalla Libia, e per bloccare questo flusso ieri Silvio Berlusconi e il presidente libico Gheddafi hanno anche firmato un accordo, come abbiamo ampiamente documentato. Intanto però c'è anche la questione del polverone che si è sollevato su quanto accade a Lampedusa. Vi ricordiamo per esempio il ministro degli interni Maroni che aveva detto chi arriva nell'isola sarà subito rimpatriato. Insomma, Lampedusa è un po' nell'occhio del ciclone. E così sembra che sempre più scafisti stiano cambiando le rotte, insomma non puntino più a Lampedusa ma puntino direttamente sulla Sicilia. Porto Empedocle è il nuovo approdo dei clandestini, che evitano sempre di più Lampedusa e le altre isole. Non bastano due casi per fare statistica, ma dal 21 febbraio e fino allo sbarco di domenica scorsa sono arrivati a sud di Agrigento 597 immigrati, come conferma l'ammiraglio Ferdinando Selvaggi, che coordina i soccorsi nella Sicilia occidentale. È chiaro che abbiamo dislocato i mezzi navali a disposizione nelle varie capitanerie del sud dell'isola. Anche il precedente soccorso era stato effettuato a favore di un'imbarcazione che si trovava circa 50 miglia a nord di Lampedusa. Effettivamente sembrerebbe che in questo momento il traffico vada verso altre direttrici di arrivo. Si moltiplicano gli arrivi anche a Pozzallo e a Portopalo di Capopassero, entrambi a sud di Ragusa. I soccorsi si complicano perché i viaggi dei clandestini diventano sempre più lunghi e faticosi. Sono molto più lunghi e come tali più pericolosi. È chiaro, per fare un viaggio così lungo cambia anche il mezzo di trasporto, non più il piccolo gommone, non più la barchetta di pochi metri, ma evidentemente una barca di maggiore consistenza, perché altrimenti pensare di fare una navigazione di 100 miglia, lei deve considerare che sono 150-180 chilometri, non è uno scherzo. Quindi allungare un viaggio in condizioni critiche di tanto è evidentemente pericoloso. Una riorganizzazione dei soccorsi non è da escludere se si confermerà il cambiamento di rotta. Nicola Cardo, GR24, Il Sole 24 Ore. Si chiama Sguardi Altrove ed è il festival in corso a Milano dedicato ai film diretti da donne. Uno di questi documentari in corso, riguarda la storia di una donna e questa storia si intreccia con la storia della radio e della politica italiana. Sentiamo. Non c'era solo la RAI. Qui Oggi in Italia, che trasmette tutte le sere dalle 20.30 alle 21 su onde medie di metri 233,3. Dal 1950 trasmetteva in italiano una radio polemica, antigovernativa, legata al Partito Comunista. Trasmetteva da Praga e si chiamava Radio Oggi in Italia. Buon Capodanno, cari ascoltatori. Ci siamo lasciati alla fine del 1950 e ci ritroviamo a poco più di 20 ore dall'inizio del 1951. La storia di quella radio, scomparsa dall'etere e anche dai ricordi, la racconta Claudia Cipriani, insieme a Niccolò Volpati, in La guerra delle onde. Claudia si è imbattuta quasi per caso nella storia e si è trovata di fronte a un mistero. Più cercavamo notizie, informazioni su questa radio, più ci rendevamo conto che era una storia molto complessa, poco raccontata, e di informazioni quasi non ce n'erano, tanto che a un certo punto ci siamo chiesti se questa radio era veramente esistita, perché era una storia mandata da un'aura quasi di segretezza, di mistero. In un'ora di audio e video di oggi e di ieri, i racconti dei protagonisti. Su tutti Stella Amici, speaker della radio fino alla chiusura, che torna a Praga alla ricerca delle memorie perdute, un po' per volontà di dimenticare, un po' per noncuranza. Ma ci sono anche i ricordi di Carlo Ripa di Meana, di Aroldo Tolomelli e di Sandro Curzi. Sandro Curzi ha aderito subito al progetto perché si arrabbiava anche moltissimo quando chi lo intervistava riguardo agli anni della radio parlava della sua esperienza a Radio Praga, e quindi ci teneva molto a raccontare la storia di questa radio, perché è stata una storia importante poi per sottolineare appunto questa differenza con Radio Praga. Il governo cecoslovacco e il partito cecoslovacco offersero all'Italia la possibilità di fare delle trasmissioni. In fin dei conti, cosa abbiamo fatto? Certo, allora era un reato, però poi è stata la spinta invece di libertà che ha portato alla nascita delle radio, di mille radio. La storia di Radio Oggi in Italia finì dopo l'invasione di Praga del 68, chiusa dai russi per aver palesato opinioni pro Dubček. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Attacco alla squadra di cricket dello Sri Lanka. Un comando di 12 terroristi armati assalta il pullman della squadra singalese a Lahore, seconda città del Pakistan. Almeno 7 le vittime. Gli esperti, il messaggio è diretto al governo di Islamabad, che non controlla il territorio. Gli Stati Uniti lavoreranno con qualsiasi nuovo governo israeliano, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Hillary Clinton in visita in Israele. Di fronte alla minaccia nucleare dell'Iran, la risposta sono le sanzioni economiche, chiarisce oggi il ministro degli esteri italiano Frattini a Radio 24. In Italia è allarme produttività e il divario con le grandi economie del mondo si fa sempre più importante. E questo in sintesi il giudizio dell'OCSE sul nostro paese, che emerge dal rapporto diffuso oggi. Ancora troppo elevata per l'OCSE la tassazione sul reddito da lavoro, soprattutto per i redditi più bassi. L'Italia è tra i paesi meno generosi in materia di incentivi fiscali alla ricerca e allo sviluppo. Nessun rimbalzo per le borse europee, seconda giornata di cali dopo il crollo di ieri. Milano maglia nera, in ribasso ora dell'1%. E in Giappone Toyota annuncia, ha chiesto un prestito di 1,7 miliardi di euro alla banca pubblica a supporto delle attività negli Stati Uniti. Operazione Rewind nel napoletano, oltre 20 gli arresti da parte dei carabinieri della provincia di Napoli, che hanno scoperto una rete di gruppi criminali che dedita al traffico di droga dalla Spagna all'Italia via Olanda e Belgio. La Camorra collaborava anche con l'Andrangheta. Slitta di 15 giorni l'arrivo nell'aula al Senato del disegno di legge sul testamento biologico. La conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama ha infatti fissato all'unanimità il nuovo calendario. Scioperi i sindacati di base all'Italia precettati per l'astensione inizialmente prevista per domani. Decisione giusta è il commento del ministro alle infrastrutture e trasporti Matteoli. Non è possibile in un momento economico come questo organizzare uno sciopero, soprattutto nel settore dei trasporti, in un momento in cui stiamo lavorando anche con i sindacati per cercare di trovare le soluzioni, non soltanto nel trasporto aereo ma anche nel trasporto pubblico locale. Paralizzare o cancellare dei voli in un momento come questo io lo trovo completamente sbagliato. È pronta la mozione del Partito Democratico al Senato sulla proposta del segretario Dario Franceschini sull'assegno mensile per chi perde il lavoro e non è coperto dalla cassa integrazione. Il documento, è stato detto questa mattina, verrà illustrato nel primo pomeriggio dalla capogruppo Anna Finocchiaro. E di fronte alla crisi che sta investendo in questi mesi le banche, fa sempre più proseliti il modello della Grameen Bank, la cosiddetta banca dei poveri, fondata dal premio Nobel per la pace Mohamed Yunus, che, come vi abbiamo raccontato anche ieri, sbarcherà presto in Italia, probabilmente entro quest'anno. È un modello, quello del microcredito di Yunus, che da noi è stato recepito per esempio dalle parrocchie. In tutta Italia sono molte le diocesi mobilitate per prestare denaro alle famiglie in difficoltà. Con Maria Luisa Pezzali iniziamo oggi un viaggio nelle parrocchie anticrisi. Carità e creatività. La crisi ha messo in difficoltà strati sociali e famiglie che mai lo avrebbero immaginato. Così le parrocchie hanno trasformato il loro impegno tradizionale a sostegno dei bisognosi in qualcosa di più. Dai fondi di solidarietà ai supermercati, outlet ed empori per la spesa gratis, fino ai prestiti a tasso zero. Progetti di microcredito sul modello Yunus, che lo stesso premio Nobel definisce non solidarietà ma business sociale. Anche nelle diocesi più piccole, da Trento a Chieti, la macchina si è già messa in moto grazie ad accordi con banche e amministrazioni locali. Come a Pavia, dove la provincia ha creato un fondo di 200.000 euro che le diocesi di Pavia, Vigevano e Tortona trasformeranno in un piano di prestiti da 2.000 euro a famiglia, senza interessi e con rate personalizzate. Alla rete diocesana delle Caritas spetterà il compito più importante, ci dice il presidente della provincia, Vittorio Poma. Quello di istruire le singole richieste, di valutarle attraverso un nucleo appunto di valutazione e poi insieme a noi di trasmetterla alla banca per l'erogazione. Un meccanismo abbastanza semplice che si fonda soprattutto sulla responsabilizzazione di chi chiede il prestito. È importante questo aspetto perché il meccanismo di rotazione permette di aprire altre pratiche, di favorire la concessione di altri piccoli prestiti. Non dimentichiamo che stiamo parlando di famiglie che potremmo considerare borderline, cioè in una situazione di difficoltà che potrebbe essere anche provvisoria e per le quali anche un piccolo aiuto potrebbe aiutarle a superare difficoltà o a migliorare la qualità della vita o a mantenere alcune spese necessarie, penso non solo alle spese mediche ma anche alle spese scolastiche per il pagamento delle rate universitarie dei figli, situazioni cioè rispetto alle quali i singoli soggetti potrebbero far fatica a trovare risposte perché i sistemi tradizionali di finanziamento non lo prevedono e che con questo possono invece avere un aiuto direi importante. Maria Luisa Pezzali, R24, Il Sole 24 Ore. Il caso Palermo rischia di spaccare il centrodestra. Di che parliamo? Sapete che il comune siciliano è in difficoltà finanziarie, sotto accusa il numero di dipendenti, i fondi erogati per le società partecipate come l'AMIA, l'azienda della nettezza urbana che detiene il primato, pensate, mondiale di uno spazzino ogni 2 chilometri. Ebbene, il buco di bilancio dell'AMIA è stato di recente ripianato dalla decisione del governo di inserire nel decreto mille proroghe 80 milioni di euro a favore dell'azienda palermitana. È un regalo al sindaco Cammarata, così l'hanno definito molti sindaci del nord, leghisti e non solo. La maggioranza rischia di perdere credibilità, questo è quanto afferma il primo cittadino di Verona, Flavio Tosi, a Valentina Furlanetto. Credo che sia uno schiaffo a tutto il paese. Sono delle elargizioni di denaro a fronte di una assoluta malagestione alla quale l'elargizione dovrebbe far fronte il commissariamento del comune e degli enti. Cioè, se uno non sa gestire, ti do le risorse straordinarie per appianare il buco, però vai a casa. Prima di Palermo il governo aveva dato dei fondi straordinari a Catania e Roma. Allora perché quest'ultimo caso è diverso secondo lei? Mentre quando è stata quella largizione straordinaria per Roma e per Catania si poteva anche evocare la motivazione che comunque erano cambiate le amministrazioni comunali, chi arrivava si trovava ai disastri lasciati dal passato. Ma per Palermo, dove c'è un sindaco che governa la città da 7 anni a questa parte, è un po' difficile dire non è colpa tua, o almeno una parte della responsabilità è tua. Visto che ha incontrato da poco il ministro Maroni, ne ha parlato con lui oppure col ministro Bossi? Sappiamo tutti che la pensiamo esattamente alla stessa maniera. Cosa ne pensano i vostri elettori? E per la Lega a questo punto non è imbarazzante far parte di questa maggioranza? Diciamo, purtroppo, come sempre quando fai parte di una maggioranza, per portare a casa il risultato grande, che è quello del federalismo fiscale, ti tocca anche accettare dei compromessi. Però ecco, cioè, ci sono dei limiti che bisogna stare attenti a passare, perché ripeto, alcuni provvedimenti in qualche modo possono trovare una giustificazione. Questo di Palermo una giustificazione non ce l'ha, cioè è difficile dire al paese guarda che adesso vogliamo finalmente cambiare le cose, vogliamo cambiare le regole del gioco, e poi invece viene fuori con un provvedimento di questo tipo, con l'ex presidente dell'AMIA di Palermo, dell'azienda dei rifiuti, che fa il parlamentare nelle file del PDL, l'ex sindaco di Catania che fa il senatore, anche quello nelle file del PDL. Credo che ci sia bisogno di un segnale chiaro di cambiamento vero, e lo parlo della mia parte politica, della maggioranza di governo. Questa dunque è l'intervista a Flavio Tosi da parte di Valentina Furlanetto. È slitta di 15 giorni l'arrivo al Senato del disegno di legge sul testamento biologico, se ne è parlato molto nei giorni scorsi, ne riparleremo tra quanto, Elisabetta Fiorito? Tra quanto, ancora nessun accordo tra maggioranza e opposizione sul testamento biologico, e quindi l'esame del testo slitta al 19 marzo, come già annunciato nei giorni scorsi e quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo del Senato, che ha accolto la proposta del presidente Renato Schifani di far proseguire l'esame del testo in commissione sanità. Il disegno di legge arriverà nell'aula di Palazzo Madama mercoledì 18, verrà presentato il testo dal relatore e verranno discusse le eventuali pregiudiziali di costituzionalità generalmente presentate dall'opposizione. Per il presidente dei senatori del Popolo della Libertà, Maurizio Gasparri, il voto finale ci sarà entro marzo, e Gasparri nega divisioni nella maggioranza e nega anche di voler comprimere il dibattito. Il vicepresidente dei senatori del Partito Democratico, Luigi Zanda, chiede invece di modificare l'articolo 2 che riguarda l'alimentazione e l'idratazione, per Zanda norme incostituzionali. Vedremo come andrà a finire il 19 marzo. Grazie. Allora, Elisabetta Fiorito, collegata con noi dal Senato. Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno. Oggi non abbiamo moltissimo tempo, ma insomma un paio di chicche dai giornali stranieri riusciamo a raccontarle. Le Figaro. Le Figaro insiste un po' su questo tema che viene trattato da tempo sui giornali, che è quello della battaglia, anzi della guerra, fatta di tante battaglie tra eBay e tutti i marchi della moda e del lusso. eBay naturalmente vende sul suo sito di aste online qualsiasi tipo di prodotto, compresi i beni di lusso, che però a volte sono falsi, la trappola è sempre in agguato, a volte si è vittime consapevoli, a volte no. Secondo i grandi marchi invece eBay ha una parte di responsabilità, e diciamo che se il senso dell'articolo di Le Figaro è: se fino a poco tempo fa, tutto sommato, visto che le vendite andavano bene nei canali tradizionali, vabbè, si poteva tollerare qualche sgarro di eBay, adesso questo è visto come un grave danno di immagine, ma a questo punto anche di vendite. Chi compra un falso su eBay non andrà poi in negozio a comprare un vero Tiffany piuttosto che una vera borsa Louis Vuitton, e quindi continuerà in tribunale naturalmente la battaglia di questi grandi nomi contro il colosso delle aste online. Giulia, dico solo WWD. Questo non è un messaggio in codice. Sì, no, questo è il quotidiano della moda e del lusso americano, e qui l'enfasi è, so che avete parlato di moda. Sì, perché oggi si concludono le sfilate milanesi. Esatto, e il WD, forse anche perché c'è un aggancio molto americano, parla di questa grande festa che hanno dato Dolce & Gabbana per l'apertura della mostra Beauty in Vogue, che è organizzata con Vogue America, e questo viene visto naturalmente come lo sforzo che devono dare queste aziende, che per quanto magari vendano un pochino meno rispetto a qualche mese fa, continuano a essere dei colossi in salute, di qualche segnale di ottimismo, perciò investire i loro soldi magari non solo in nuovi negozi ma in iniziative culturali come questa della mostra. GR Extra Largo, queste le principali notizie della giornata. Attacco alla squadra di cricket dello Sri Lanka, un comando di 12 terroristi armati assalta il pullman della squadra cingalese a Lahore, seconda città del Pakistan, almeno 7 le vittime. Gli Stati Uniti lavoreranno con qualsiasi nuovo governo israeliano, lo ha dichiarato il segretario di Stato di Washington Hillary Clinton in visita in Israele. E di fronte alla minaccia nucleare dell'Iran, la risposta sono le sanzioni economiche, chiarisce il ministro degli esteri italiano Frattini, che a marzo sarà a Teheran. In Italia è allarme produttività e il divario con le grandi economie del mondo si fa sempre più importante. Questo, in sintesi, il giudizio dell'OCSE sul nostro paese, che emerge dal rapporto diffuso oggi, ancora troppo elevata per l'OCSE la tassazione sul reddito da lavoro. Borse europee nel suo rimbalzo, seconda giornata di cali dopo il crollo di ieri. Milano maglia nera, in ribasso di circa l'1%. Operazione anticamorra nel Napoletano, oltre 20 arresti da parte dei carabinieri che hanno scoperto una rete di gruppi criminali dedicata al traffico di droga. La camorra collaborava anche con l'Andrangheta. Prima missione del segretario di Stato americano Hillary Clinton in Medio Oriente. Oggi è in Israele, mentre domani sarà in Cisgiordania per incontrare il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen. La Clinton ha detto stamattina che gli Stati Uniti lavoreranno con qualsiasi nuovo governo israeliano. E intanto, secondo quanto riferisce il quotidiano israeliano Haaretz, le autorità di Israele intendono presentare a Hillary Clinton un documento con alcune condizioni per quanto riguarda la riapertura del dialogo tra Washington e l'Iran. Ed Iran ha parlato oggi il nostro ministro degli esteri Franco Frattini, intervenuto nella trasmissione Parliamo con l'elefante, condotta da Giuliano Ferrara. Una guerra con l'Iran sarebbe una catastrofe per il mondo intero, perché io mi permetto di continuare ad escludere l'ipotesi di un'azione militare, perché il mondo cambia, direi, giorno per giorno. Con un abbassamento così forte dei prezzi del petrolio, l'idea di sanzioni che esistono e che l'ONU ha già stabilito, sanzioni effettive, ha un effetto ancora più forte e deterrente. Quindi l'evoluzione dello scenario credo che induca l'Iran a una disponibilità e possa indurre l'Iran a una disponibilità maggiore con la comunità internazionale. Bene. Sì. Ma guardi, il mio obiettivo è molto preciso e molto puntuale, come coinvolgere l'Iran nella stabilizzazione di quella regione, ma anche confermare all'Iran, colgo l'occasione per dirlo, che l'Italia condivide la politica americana della doppia traccia, cioè da un lato offerta di dialogo, dall'altra un no deciso alla bomba atomica iraniana. Questo deve essere chiaro, che nessuno abbia l'idea che io vada a dare avalli in qualche modo. E questo il ministro Frattini. Si parla invece di un altro ministro italiano, questa volta Scajola, sulla stampa araba di oggi. Sentiamo di cosa si tratta da Adib Fateh Ali. Il premier iracheno Nouri al-Maliki sollecita le imprese italiane di fare presto per realizzare la costruzione del grande porto di Al-Faw, l'unico sbocco sul mare del paese. Con questo titolo, in prima pagina, il quotidiano di Stato iracheno As-Sabah dedica oggi ampio risalto alla visita di ieri a Baghdad del ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola. In un comunicato della Presidenza del Consiglio, al-Maliki ha sollecitato i ministri iracheni che hanno siglato protocolli di cooperazione con Scajola di agire rapidamente, sottolineando il ruolo dell'Italia per il suo contributo fondamentale per lo sviluppo dell'economia irachena. Dopo il ritiro delle truppe britanniche da Bassora, Baghdad ha inoltre sollecitato l'Italia per una rapida fornitura di elicotteri e motovedette militari. Il giornale dà anche notizia di un'imminente fiera a Baghdad per le imprese italiane. Adib Fateh Ali, GR24, Il Sole 24 Ore. E per chiudere, spazio ai libri. Si intitola Vite bruciate, è un romanzo scritto dalla francese Dominique Manotti, pubblicato in Italia da Tropea. Parla dei problemi del mondo del lavoro in una regione, la Lorena, che vive una fase di deindustrializzazione. È un romanzo, lo sottolineiamo, e non un saggio. La Manotti infatti non ha voluto fare un libro di denuncia, ha voluto semplicemente raccontare delle storie umane. Allora ecco come l'autrice ci ha descritto, quando l'abbiamo incontrata, i protagonisti del suo romanzo. Les deux principaux sont l'ouvrière Rolande. I due principali sono l'operaia Roland e un ex poliziotto che lavora nei servizi di sicurezza delle aziende. Dietro di loro si celano due mondi diversi. Da una parte i dirigenti di industria e di alta finanza, e dall'altra la gente della Lorraine, regione che sta subendo la deindustrializzazione. Sono due mondi che si intrecciano ed entrano in collisione. Due mondi completamente differenti che si croisent e che si entrechoquent. Il romanzo si apre con la morte di un'operaia sul luogo di lavoro. Lei, che è un ex sindacalista, quanto ha preso spunto da fatti reali per raccontare queste storie? Oui, bien sûr, j'ai été syndicaliste pendant très longtemps. Effettivamente, io ho fatto la sindacalista per molti anni. Ho aperto il romanzo con l'incidente sul lavoro. È ambientato alla catena di montaggio che ritma non solo la vita lavorativa delle persone, ma anche i rapporti che hanno con gli altri, il modo in cui si esprimono. Tutta la prima parte del romanzo è piena di ricordi su questo sistema di lavoro. Lo sciopero e il lavoro alla catena di montaggio sono tutti i miei ricordi molto diretti. Syndicalisti. Ce sont des souvenirs très directs. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large. Alessio Maurizio e Alessandra Tedesco in studio, il coordinamento di Maria Piera Ceci, in regia Peter Bescapè. Prossimo notiziario alle 15. GR 24, il sole 24 ore. Direttore Gianfranco Fabi.